E si arriva innanzitutto consapevoli di quello che ci dice la storia, e cioè che soltanto in 3 dell'intera storia americana il partito del presidente non ha perso seggi alle elezioni di metà mandato. E quindi la storia ci dice, e anche i dati, i sondaggi, l'aria che tira, che il partito repubblicano va incontro a una diminuzione della sua rappresentanza al congresso. Quello che non sappiamo, ed è lì che il risultato è appeso, è se perderà così tanti seggi da perdere la maggioranza in una delle due, dei due rami del congresso o in entrambi, oppure se la conserverà. I dati, i sondaggi dicono che il partito repubblicano rischia di perdere la sua maggioranza alla Camera mentre dovrebbe conservarla al Senato, ma questo sarebbe comunque un grosso problema per l'amministrazione Trump, visto che con la Camera in mano ai democratici la sua agenda legislativa sarebbe di fatto bloccata o quasi nei 2 anni che lo separano dalle prossime presidenziali. Nel caso i democratici avessero la maggioranza alla Camera, appunto, è un altro tema di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa, era quello delle continue minacce, diciamo, di impeachment nei confronti del presidente, che però non erano perseguibili finché avesse avuto la maggioranza al Parlamento. Cambierebbe qualcosa anche da questo punto di vista? Potenzialmente sì, perché moltissimi elettori democratici e tanti candidati democratici alla Camera hanno promesso e vogliono che Trump sia messo sotto impeachment, e siccome basta un voto a maggioranza semplice della Camera per far partire questa procedura, è quantomeno plausibile che se i democratici conquistino la maggioranza alla Camera ci provino. Bisogna tenere conto però del fatto che questa procedura non è mai andata a buon fine nella storia americana. Anche Nixon, famoso caso, si dimise prima che la procedura si concludesse, perché per concludersi serve un voto dei 2/3 del Senato. Insomma, il rischio è che i democratici magari possano anche mettere Trump sotto impeachment, ma così facendo, nell'impossibilità poi di rimuoverlo davvero, possano anche dare delle nuove motivazioni in realtà agli elettori repubblicani, che lo vedrebbero come un grande abuso. Oggi gli elettori repubblicani sono meno entusiasti di andare a votare e meno motivati rispetto ai democratici, una procedura di impeachment contro Trump potrebbe rivitalizzarli. Parlando invece del modo in cui ci si sta arrivando a queste elezioni, il quotidiano The Nation ha riassunto la strategia di Trump per le elezioni di midterm in Fear, Lies and White Nationalism, e in particolare ha citato il fatto che, tra l'altro, Trump per la prima volta lunedì si è definito un nazionalista dopo aver rifiutato questo termine a lungo. Quindi qual è la strategia che sta adottando Trump a livello elettorale, e sei d'accordo con la definizione di The Nation? Ma sono d'accordo, diciamo, ma è una definizione secondo me parziale. Cioè, Trump è vero che, come aveva già fatto nel 2016, punta molto sulla paura degli americani, soprattutto degli immigrati, punta molto sul suo fascino che ha verso soprattutto gli elettori bianchi, dice un sacco di cose che sono totalmente false, ma false proprio in modo patente, non c'è nessuna discussione. Quello che manca a questo ritratto, secondo me, è un'altra cosa. Trump sta anche puntando molto sui suoi risultati di questi 2 anni. L'economia americana sta andando benissimo, non per merito suo o non solo per merito suo, lo faceva anche prima, ma continua ad andare bene, e Trump ha mantenuto molte delle promesse che aveva fatto. Possono piacerci o no, però gli Stati Uniti sono usciti dall'accordo di Parigi, sono usciti dall'accordo sul nucleare iraniano, hanno in corso una guerra commerciale con la Cina, hanno approvato un grosso taglio delle tasse soprattutto sulle imprese e i più ricchi. Sono cose che Trump aveva promesso e in queste settimane sta raccontando di averle fatte. Quanto pesa invece il tema della carovana dei migranti di cui tanto sta parlando Trump su questa elezione? Quanto potrebbe pesare? Nel senso, anche uno degli uomini a lui più vicini, che ha curato la sua campagna, lo ha definito un dono per la campagna elettorale e anche ha detto sarebbe stato ancora meglio se avessero portato anche eroina. Sì, Trump sta molto puntando su questo tema per cercare di smuovere la base del suo partito e convincerla ad andare ai seggi, cosa sempre complessa per un presidente alle elezioni di metà mandato. E quindi anche in questo caso, con notizie false, informazioni false, come la presunta presenza di molti medio orientali in questa carovana, cosa falsa, ma anche il presentarla come una minaccia imminente. Basta vedere una cartina geografica per vedere quanto questi migranti siano ancora lontanissimi dal confine americano. Trump utilizza questo tema non solo, appunto, come per dare una motivazione nuova ai suoi elettori, ma anche forse per far dimenticare che la sua più grande promessa mancata in questo momento riguarda proprio l'immigrazione. Il muro al confine col Messico non solo non esiste ancora, ma non è nemmeno ancora stato stanziato $1 per iniziare quella costruzione. Un'ultima domanda, questa volta sui democratici, nel senso che prima delle elezioni comunque c'era stato uno scontro alle primarie tra due modelli di partito molto diversi, da una parte con Hillary Clinton e dall'altra con Bernie Sanders, e sembra che un po' stia cambiando la composizione del partito, almeno quella vincente, con un maggior numero di donne e un maggior numero di rappresentanti di minoranze etniche, così. Sì, dal punto di vista della linea politica c'è stato uno spostamento su posizioni un po' più radicali, insomma, niente di rivoluzionario, ma diciamo un po' più dalla parte di Sanders. Sanders che da quella di Clinton, se vogliamo riprendere l'analogia rispetto al 2016. Ma la più grande trasformazione è l'ultima cosa di cui parlavamo, cioè la trasformazione nell'identità dei candidati e dell'elettorato democratico. Ci sono donne candidate col Partito Democratico così tante come mai non c'erano state, e la coalizione degli elettori democratici è una coalizione che vede un contributo sempre più importante, e questo peserà anche nel 2020, di donne e di persone non bianche. Sono peraltro il segmento demografico negli Stati Uniti che cresce numericamente di più, e quindi anche solo per quello, dal punto di vista della progressione anno dopo anno, dovrebbe aiutare i democratici in futuro.